23 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 23 dicembre. È quasi una settimana che non scrivo in questo mio caro giornalino. Sfido, come avrei potuto farlo con la clavicola spostata e il braccio sinistro ingessato? Ma oggi finalmente il dottore mi ha tolto l'apparecchio e alla meglio posso descrivere qui, dove confido tutti i miei pensieri e tutti i casi della mia vita, la tremenda avventura che mi successe il 18 dicembre, data memorabile per me, perché fu un vero miracolo che non segnasse l'ultimo giorno della mia vita. Quella mattina, dunque, appena Cecchino Bellucci venne a sedermi accanto in scuola, lo trattai di vigliacco perché era scappato in automobile per paura della lezione che gli avevo promesso. Lui allora mi spiegò che in questi giorni, essendo i suoi genitori a Napoli per la malattia di suo nonno, che sarebbe il babbo della sua mamma, era stato accolto in casa del suo zio Gaspero, il quale lo mandava a prendere a scuola tutti i giorni con l'automobile per lo chauffeur, e che perciò non poteva trovarsi a solo con me, almeno per un certo tempo. Dietro queste spiegazioni mi calmai e ci mettemmo a discorrere dell'automobile, che è una cosa che mi interessa assai. E il Bellucci mi spiegò tutto il meccanismo, dicendomi che lui lo conosce benissimo e ci sa andare anche solo, e ci è andato più di una volta, perché basta saper girare il manubrio e stare attenti alle voltate, anche un ragazzo lo sa manovrare. Io veramente ci credevo poco, perché mi pareva impossibile che lasciassero l'automobile nelle mani a un ragazzetto come Cecchino Bellucci. E siccome glielo dissi, lui per punto d'impegno mi propose una scommessa. «Senti», mi disse, «lo chauffeur oggi deve fermarsi alla Banca d'Italia per sbrigare una commissione che gli ha dato lo zio Gaspero, e io rimarrò solo sull'automobile. Tu cerca il modo di uscire prima dalla scuola e fatti trovare sul portone della banca. Mentre lo chauffeur si tratterrà dentro, tu monterai sull'automobile e io ti farò fare un giretto intorno alla piazza e così vedrai se son capace o no, va bene?» «Benone!» E si scommise 10 pennini nuovi e un lapis rosso e turchino. Detto fatto, una mezz'oretta prima dell'uscita, cominciai a dimenarmi sulla panca, finché il professor Muscolo mi disse «Tutti fermi! Che cos'ha lo stoppani che si divincola come un serpente? Tutti zitti!» «Mi dole il corpo!» risposi. «Non ne posso più!» «Allora vada a casa, tanto c'è poco all'uscita!» E io, come s'era stabilito con Cecchino, uscii e andai difilato alla Banca d'Italia, dove aspettai fuori del portone. Poco dopo, eccoti l'automobile del Bellucci. Lo chauffeur discese, e quando fu entrato nella banca, a un cenno di Cecchino montai su e mi misi a sedere accanto a lui. «Ora vedrai se so mandarla anche da me», mi disse. «Tieni intanto la tromba e suona». Si chinò dicendo «Vedi, per andare basta girar questo». E girò il manubrio. L'automobile fece putopum 2 o 3 volte e via di gran carriera. Io lì per lì mi divertii molto e mi misi a suonar la tromba a tutta andare ed era un ridere a veder tutta la gente sgambettar di qua e di là per scansarsi guardandoci spaventata. Ma fu un attimo. Capii subito che Cecchino non sapeva regolar l'automobile in nessuna maniera, né frenarla, né fermarla. «Suona, suona!» mi diceva, come se il suonare la tromba potesse influire sul meccanismo. Si uscì dalla città come una palla di schioppo e via per la campagna con una velocità vertiginosa, tanto che non si respirava. Cecchino a un tratto lasciò il manubrio e si abbandonò sul sedile bianco come un cencio lavato. Dio mio, che momento! Solamente a ripensarci mi sento rizzare i capelli sulla testa. Fortunatamente la strada era larga e diritta e io vedevo come in sogno sfuggirmi dinanzi agli occhi la campagna intorno. Di questa visione mi è rimasta un'impressione così viva che posso qui riprodurla come in un'istantanea. Ricordo benissimo che un contadino che badava ai buoi, vedendoci passare come una saetta, urlò con una voce formidabile che arrivò a coprire il rumore dell'automobile. «L'osso del collo!» Il malaugurio si avverò anche troppo presto, e se non ci si ruppe proprio l'osso del collo, andaron rotte altre ossa non meno utili. Io ricordo appena che a un certo punto vidi dinanzi a me sorgere a un tratto dalla terra come un grande fantasma bianco che si riversasse sull'automobile. E poi più nulla. Dopo ho saputo che a una svoltata della strada eravamo andati contro una casa, che la violenza dell'urto era stata tale che io e Cecchino avevamo fatto un volo per aria di una 30ina di metri e che nella disgrazia avevamo avuto la fortuna di cascare dentro una macchia che ci servì come di una molla, attutendo il colpo della caduta in modo che non fu, come poteva essere, mortale. Dice che dopo mezz'ora del disastro arrivò lo chauffeur del Bellucci con un'altra automobile che era corso a prendere a Nolo appena si era accorto della nostra fuga e ci trasportò tutti e due all'ospedale, dove a Cecchino ingessarono la gamba destra e a me il braccio sinistro. Io non mi potevo muovere e dovettero accompagnarmi a casa in lettiga. Certo, è stato un brutto azzardo e i miei poveri genitori e Ada hanno provato un gran dispiacere. Ma però è stata anche una bella soddisfazione per me il raccontare a tutti quelli che son venuti a farmi visita questa mia avventura, descrivendo la nostra corsa vertiginosa che faceva ripetere a ciascuno: «È stata una vera e propria corsa alla morte, come quella di Parigi!» E oltre a questo, ho la soddisfazione di aver vinto a quello sballone di Cecchino Bellucci 10 pennini nuovi e un lapis rosso e turchino, che appena saremo guariti mi dovrà dare se non vuole che gli dia quella famosa lezione che deve avere per i suoi boom contro mio cognato. Fine del 23 dicembre.